Se non prendo il caffè non riesco a carburare. La stragrande maggioranza dei produttori di caffè consuma 3 tazzine al giorno. Il caffè è la seconda cosa trattata. Ma serve anche la caffeina può migliorare le nostre prestazioni ambientali. Tutto il mondo si beve caffè. 18, anzi che 18, 17, 8 minuti primi, 52 secondi. Manco abbiamo iniziato già sbagliato, povero da me. Ma guardate, veramente, siamo un po' in ritardo e in effetti io non sono neanche troppo in grado di fare una trasmissione, già mi viene da ridere, perché insomma era il compleanno di mio fratello e perciò ho fatto un barbecue. Insomma, spero di non avervi finito il vino, se state ancora lì. A fare la trasmissione, insomma, una bella salsicciata. Tanti auguri a mio fratello, tanti auguri a Monica, a Tonica, a Svonica che stava lì. E allora, siamo pronti per iniziare questa puntata di Caffè Doppio. È domenica, non mi ricordo che numero, di marzo, 18. Però 2012, 18 marzo. Allora vedi che un 18 c'era, ho detto 18 mica a caso, Vabbè, andiamo avanti. Allora, comunque, è il 2012. Sicuramente, questo siamo quello... sicuri tutti. Sì, perché sta per finire il mondo, ce lo ricordiamo per quello, giusto? Siamo d'accordo? Andiamo avanti anche dopo questa affermazione. Va bene, allora, dopo qualche puntata che avevamo, diciamo, diretto verso la musica degli anni 70, un po' in generale, dalla psichedelica al progressive con Frank Zappa, i Gong, Kevin Ayers e tanti altri artisti, oggi torniamo a parlare di anni 70 con un altro redattore di Radio Onda Rossa che è qui davanti a me. In realtà non è proprio un redattore, noi abbiamo deciso di spacciarlo per redattore, ma in realtà mentre venivamo qui nello studio di Via dei Volci l'abbiamo visto sul marciapiede che suonava la batteria, un po' puzzava, stava lì da sola a suonare sta batteria, nessuno che se lo filava. Allora ci ha fatto un po' pena, abbiamo detto vabbè, ma viene in radio con noi, forse sì, avrà qualcosa da dire, allora l'abbiamo portato in studio. Allora, buongiorno a tutti, vi presentiamo Banana. Buongiorno a tutti e ringrazio molto per la felice presentazione, insomma. Allora, Banana è qui con noi, ha vissuto gli anni 70 soprattutto dal punto di vista musicale e ascoltandoci, soprattutto notando un pezzo di Gong che mandavamo in onda, ci voleva, insomma, voleva dare il suo contributo alla musica degli anni 70 parlandone dai microfoni di Onda Rossa. Esatto, parlare un po' di musica degli anni 70 e per far sentire qualche cosa che magari non si sente abitualmente. Va benissimo, allora per iniziare già abbiamo prontissimo un pezzo, ce lo puoi presentare direttamente tu. È un pezzo di Mark Bolan. Va benissimo, allora ve lo mandiamo in diretta, Mark Bolan, 17:11 minuti per Caffè Doppio, Radio Onda Rossa 87.9. E se vi piace naturalmente potete alzare il telefono e comporre lo 06 49 17 50. I'm not gonna dance, my princess, by the light of a magical moon. I'm not gonna dance, my princess, by the light of a magical moon. As I carry along my way, I say hey, hey. Say hi, hi, hi, hi. I'm not gonna talk with the elders until all of our hearts that is good. I'll a barefoot dance with my baby by the light of a magical moon. Say hi, hi. I'm a gonna dance, dance with my baby, baby, by the light of my magical moon. Gonna dance. in my baby. By the light of a magical moon, when I slay the darkest tide, and then we can climb till that a deep and joyous tide. We'll dance and ride. All right. E allora, 17:14 minuti primi, 20 secondi, 87.9 di Radio Onda Rossa, siete all'ascolto di Caffè Doppio, come tutte le domeniche, dalle 17 alle 18, mentre DVX tossisce, perché anche questo fa parte della trasmissione, ed è importante che lo ascoltiate della diretta, insomma. Con attenzione. Ancora un saluto al vino e alle salsicce del Giardino di Trastevere. E un saluto a tutti quelli che ieri sera sono rimasti a casa coi gomiti, cioè sono tornati a casa coi gomiti dopo San Patrizio. Vorrei no, salutare... Non con quattro zampe, perché con quattro zampe coi sarebbe gomiti. Troppo facile, ma con coi sei gomiti. Zampe. Sì, esatto. Ma sei zampe? Sì, perché quattro zampe è troppo semplice. A te il vino, cioè, uno fa, può male. Pure fare... a te il vino fa no, malissimo. Fidati, ho una mia teoria molto seria, nel senso che quattro zampe sono buoni tutti, nel senso uno fa finta, si mette a quattro zampe e va. Ma sei zampe, fidati che ci si riesce molto difficilmente. Poi in primato mi spiegherai che... l'azione dinamica, proprio il dinamismo di questa azione, non l'ho capito benissimo. Però... diciamo che comprende anche una parte della rivoluzione dell'antimateria, perciò sarebbe un po' difficile spiegartela fisicamente, ma... fisica quantistica. Qua Radio Onda Rossa. Vabbè. Va bene, allora diciamo ci ascoltavamo questo primo pezzo di Tim Buckley. No quello lì è quello che va dopo, giustamente. Dicevi? Questo pezzo era di Mark Bolan, Tyrannosaurus Rex, un pezzo del 1970. Il primo disco che fecero i T-Rex in una formazione composta da sole due persone, infatti si sentiva dai suoni molto scarni. Ho capito. Senti, io diciamo per iniziare questa puntata ti vorrei fare una prima domanda, diciamo, di introduzione che poi ci accompagnerà per tutta l'ora. Nel senso, adesso noi siamo abituati che andiamo su YouTube, scrivi la canzone che ti ha detto il compagno di banco, te l'ascolti e vai, no? E secondo me ha perso anche molto durante gli anni, nel senso andare su YouTube è sicuramente qualcosa di molto più scarno che andarsi a comprare un vinile con tanto di sudore. Allora, com'era ascoltarsi la musica negli anni 70, ti volevo chiedere? Allora, essenzialmente è molto difficile, perché appunto la varietà di musica che puoi trovare oggi su YouTube è... totale, puoi trovare qualsiasi cosa, mentre invece in quegli anni era difficile trovare anche solo il disco proprio in carne ed ossa, insomma. Per cui, diciamo, era difficile arrivare appunto a impossessarsi di quei vinili, per cui era, diciamo, tutto quanto una ricerca continua, girare per negozi che ti dicevano chi sono questi? No, non li conosco proprio. Infatti io sapevo che alcuni miei amici addirittura quando... no, ancora non c'era YouTube o comunque tutti i mezzi elettronici, loro prendevano e andavano proprio in pellegrinaggio, sembrava veramente esatto. Un pellegrinaggio, una Mecca, andavano verso i negozi di dischi a cercare questi vinili degli Emerson, Lake & Palmer, oddio, li troverò mai, e magari si facevano anche 50 chilometri per andare a trovarli. In quegli anni alcuni andavano appunto a Londra oppure nelle capitali europee magari più fornite così a cercare qualche disco, ma appunto non era, capite bene che non era facilmente... possibile anche economicamente parlando andare a Londra per comprare un disco, insomma. Mi sembra certo. Difficile. Naturalmente. Senti, secondo me ci possiamo subito ascoltare un altro pezzo, perché vedo che nonostante questi pellegrinaggi fossero molto difficili e bisognasse sudare veramente per trovare un po' di buona musica da ascoltarsi durante le giornate, comunque, insomma, tutti si è fatto una discreta collezione che ci ha portato qui in radio, e perciò, visto che il tempo è tanto ma è poco, ci possiamo subito ascoltare un altro pezzo. È tanto poco da me. Scusa, è tanto me poco. Che... Senti, non mi correggere perché veramente insomma, una non figura mi retorica. Caso. Vabbè, andiamo avanti. Va bene, allora ci passavi adesso Tim Buckley. Il pezzo si chiama Ashbury Park. È del 1968, lui è più conosciuto per il figlio che si chiama Jeff Buckley, mentre invece lui è il padre che si chiama Tim, è attivo solamente negli anni 70 perché poi è morto molto giovane di overdose. Ho capito, va benissimo. Allora, da Tim Buckley, The Dream Belongs to Me, la traccia 3, vediamo se riesco a leggere perché questo è sempre... Ashbury Park. Ashbury Park, perfetto, già ce lo dicevi. Allora, non resta che ascoltarci, l'87.9, di nuovo, alzate il telefono e componete lo 0649 1750, sempre che vi piaccia la musica che passiamo. Time it takes to heal. Lord, I don't understand the reason why it goes this far along. Oh, but I you ever lose, oh, a single thing, long as you remember, as long as you have your dreams, Lord, all stays with you. Ed è terminato anche questo secondo pezzo di Tim Buckley, sempre 17-21 minuti, all'ascolto di Caffè Doppio e di Radio Onda Rossa. Con i motorini che passano di fianco. Con i motorini che passano, sì, perché comincia a fare caldo e perciò siamo costretti a tenere la finestra aperta. Noi siamo un po' ambientalisti, non troppo, ma un pochino sì, e perciò i condizionatori non li apriamo anche se fa caldo. Insomma, sentirete un po' di rumori. Speriamo che non passi l'ama a ritirare le bottiglie, perché quello lì è veramente un casino. Perché ogni tanto a me mi è capitato che ti passa proprio sotto la finestra degli studi di Onda Rossa. Cioè, e tu che fai un discorso serio, un molto impostato, allora, con... perché il Papa con detto... le bottiglie, no? È fatto ratatatatata e tu non senti più un cazzo, insomma. Insomma, il succo è quello. Comunque, ci stiamo facendo un po' un... stiamo cercando di costruire una macchina del tempo per andare indietro negli anni 70, fondamentalmente. Lo facciamo attraverso la musica, cercando di ascoltarci un po' di musica degli anni 70, come si faceva prima, tant'è che non stiamo mettendo MP3, ma il CD prima ancora si ascoltava dal vinile, però insomma il vinile è un po' complicato da reperire ormai. E allora, ci ascoltavamo questo pezzo di Tim Buckley. Non so se ci vuoi dire due parole su di lui. Sì, no, insomma, lui muore molto giovane, però appunto già si sente la differenza tra Mark Bolan e Tim Buckley, che appunto, a parte Mark Bolan è inglese e lui è americano, e che appunto c'è molta più cura nel suono e una ricerca magari più accurata delle sonorità, insomma. Ho capito. Va bene, allora possiamo continuare subito, visto che la musica è tanta, ad ascoltarci un altro pezzo, a continuare la nostra ricerca negli anni 70. E allora, adesso ti chiedo subito di presentarci il prossimo pezzo. Il prossimo pezzo è di Syd Barrett, membro dei Pink Floyd, che venne, diciamo, allontanato, se ne andò dal gruppo e fece un paio di dischi da solo, appunto molto curiosi, anche perché tra un disco e l'altro ci fu un ricovero in ospedale psichiatrico dovuto all'abuso di LSD in prevalenza e comunque di allucinogeni, insomma. Ho capito. Allora magari ci ascoltiamo prima un pezzo dal pre-ricovero e poi un post-ricovero, anche per vedere le eventuali differenze tra un... Sono molto difficili da trovare, comunque sì, ok. Va benissimo. Allora, presentaci questo pezzo, Golden Hair, se non sbaglio. Esatto. Di Syd Barrett, dall'album The Madcap Loads. Lean out your window, golden hair. I heard you singing in the midnight air. My book is closed, I read no more. Watching the fire dance on the floor. I've left my book, I've left my room. For I heard you singing through. Singing and singing a merry air. Lean out of the window. Go Allora, era un pezzo di Syd Barrett, benissimo, da uno il suo primo album da esatto. Solista. È intitolato Il cappellaio matto ride, The Madcap Flows. Uh-huh. E il pezzo appunto era Golden Brown. Ho capito, va benissimo. Allora, questo qui ci dicevi è un album composto prima del suo ricovero all'ospedale psichiatrico per un abuso di acidi, perciò diciamo anche per questo ricordiamo che utilizzare gli acidi per raggiungere l'illuminazione magari può essere interessante, ma bisogna sempre ricordarsi che alla fine è qualcosa che l'organismo sopporta fino a un certo punto, perciò può essere interessante. E qualsiasi abuso non è salutare per la propria salute, insomma. Certamente. Insomma, noi ringraziamo in ogni caso Syd Barrett per aver sopportato un ricovero nell'ospedale Syd Barrett. Syd Barrett. Per un ricovero in un ospedale Syd Barrett. Mi viene da dire Syd Barrett, guarda. Perché lo amo, questo qui è un amore platonico che mi continua a far ripetere Syd Barrett. Vabbè. Lo ringraziamo per aver sopportato il suo ricovero in un ospedale psichiatrico, perché comunque ci ha regalato molto, sia con i Pink Floyd che poi con i suoi album da solista. E allora abbiamo ascoltato questo primo pezzo, io direi che ci potremmo ascoltare anche un altro pezzo prima dei no, non prima, ma dopo questo ricovero, tratto da un altro album di Syd Barrett intitolato Barrett, tra l'altro dello stesso anno, tutti e due del 1970. Ho capito. Allora, ci possiamo ascoltare la traccia 12, Effervishing Elephant, un elefante effervescente come l'acqua lete, direi. Chissà se anche lui aveva una sola particella Brio di sodio. Blu, acqua lete, acqua lete. Chissà se anche lui giocava con un solo atomo di sodio. Tra l'altro era la Ferrarelle, però vabbè. Era la Ferrarelle, no, era l'acqua lete. Vabbè, insomma, senza fare pubblicità. Ci ascoltiamo questo pezzo, Effervescent Elephant di Syd Barrett, dall'album Post Ricovero. An effervescing elephant with tiny eyes and great big trunk, once whispered to the tiny ear, the ear of one inferior, that by next June he'd die. Oh yeah, because the tiger would roam. The little one said, oh my goodness, I must stay at home. And every time I hear a growl, I'll know the tiger's on the prowl, and I'll be really safe, you know. The elephant, he told me so. Everyone was nervy, oh yeah, and the message was spread to zebra, mongoose, and the dirty hippopotamus, who wallowed in the mud and chewed his spicy hippoplankton food, and tended to ignore the word, preferring to survey a herd of stupid water bison. Oh yeah, and all the jungle took fright and ran around for all the day and the night, but all in vain, because you see, the tiger came and said, who, me? You know, I wouldn't hurt not one of you. I much prefer something to chew, and you're all too scant. Oh yeah, he ate the elephant. Questo pezzo breve breve di un elefante effervescente, si vede che aveva trovato un'oasi un po' speciale dove abbeverarsi, immagino. Eh sì, Syd Barrett, insomma, ha dimostrato nella sua carriera di essere molto molto molto fantasioso, insomma. Sì. E in quegli anni, staccandosi dai Pink Floyd, fece delle musiche molto diverse appunto da quelle del gruppo, che poi proseguisse una strada, diciamo, avviata verso una musica un po' più commerciale. Ho capito. E allora, questo era un secondo pezzo di Syd Barrett che ci ascoltavamo in questo momento. Possiamo continuare direttamente ad ascoltarci un altro pezzo, e ti chiedo di presentarcelo subito. Esatto, facciamo un altro salto dall'Inghilterra, passiamo all'America con un altro personaggio non tanto in sé, che si chiama Capitan Beefheart. Questo pezzo si chiama Mirror Man, tratto da un concerto a Los Angeles del 1965. Va benissimo, allora, dai microfoni di Onda Rossa, anzi non proprio dai microfoni, ma dai lettori CD a questo punto di Onda Rossa, 17:31 minuti, queste sono le campane di San Lorenzo, da Radio Onda Rossa 87.9, ci ascoltiamo subito questo pezzo. E allora qui ci si ascoltava quest'altro pezzo, ci dicevi, tratto da un album registrato dal vivo in un concerto di Los Angeles nel 65, quindi oltre a, spostarci in America ci spostiamo ancora più indietro nel tempo, negli anni 60. E niente, se ci vuoi raccontare qualcosa di questo artista oppure non lo so. No, beh, Capitan Beefheart è un personaggio molto singolare, musicale, perché appunto già nel 1965 faceva questo tipo di musica che sì, è blues, ma è venato di molte influenze, diciamo, psichedeliche e anche, diciamo, un bel mattacchione, insomma, infatti poi verrà preso nel gruppo quasi stabilmente da Frank Zappa, un altro grande personaggio, insomma, e in cui magari se ti va possiamo già annunciare il prossimo brano, che è un brano certamente di Frank Zappa dove partecipa Capitan Beefheart, che si chiama Otrez. Frank Zappa, Hot Rats, precisamente Willy the Pimp. No, non era quello. Non era quello, ho sbagliato brano, mi dispiace. Però sia col PC, sia col CD player. E il vino che c'è in corpo, giustamente, ma... uno... No, ma che vino, solo acqua. In realtà è perché a me piaceva di più questo. Nel senso, ho messo il brano 4 perché ho detto... E allora pronuncia per favore il titolo. Piccoli ombrellini mi piace di più, allora. ci siamo ascoltati giusto l'inizio di Little Umbrellas, che comunque è un bellissimo altro brano di Hot Rats di Frank Zappa. Insomma, vi invito ad ascoltarvi questo album con cui io sono cresciuto, tra l'altro. Insomma, è apprezzabile nella completezza di tutti i suoi brani, ma in questo momento, invece di ascoltarci Little Umbrellas, andiamo ad ascoltare Willy the Pimp. Willy the Pimp, sempre Frank Zappa, Hot Rats. E ancora una volta, se vi piace, fateci compagnia con qualche squilletto. 0649 1750. The boys that she can't beat. $20 bill I can send you straight. Meet me on the corner, boy, I don't be late. Man in a suit with a bow tie neck. Wanna buy a club in a day by check. Standing on the porch of the Lido Hotel, blues it in the lobby, love the way I sell. My feet, my rats, my cats, my kids, my kids. Thank you. E questo era Willy the Pimp dall'album Hot Rats di Frank Zappa. E ce lo tagliamo a metà perché purtroppo, anzi per fortuna, purtroppo o per fortuna, abbiamo un sacco di musica da ascoltare. E cominciamo a passare al prossimo pezzo che è già prontissimo nel lettore di CD. E anche per questo ti chiediamo di presentarlo tu in prima persona. Esatto, è un progetto che si chiama Matching Mall, composto da, tra cui da Robert Wyatt. Ma andiamo ad ascoltare e poi ne parliamo, così sentite che razza di roba sia. Va benissimo. Anche di questi si sente che sono molto sani di mente. While he lives in fear of rich and pompous goods. Abbiamo cambiato un po' atmosfere, siamo passati da atmosfere meno rock ma più jazz con questo progetto Matching Mall da cui partecipa Robert Wyatt, futuro membro dei Soft Machine che ora andremo a esplorare anche loro. E certamente, infatti adesso passiamo all'ascolto della mia radiosveglia, tra l'altro, perché da quando Banana mi ha passato il disco non sono più riuscito a staccarmi da quelle sonorità jazz rock che mi svegliano la mattina molto dolcemente. Tra l'altro a volte neanche mi riesco a svegliare perché dico, vabbè, a scuola non ci voglio andare, io mi voglio ascoltare i Soft Machine. E allora andiamo a sfumare questo pezzo per passare direttamente ai Soft Machine, che ancora una volta ci presenti tu. Un pezzo che si chiama Moon in June, scritto appunto da Robert Wyatt, e passiamo all'ascolto. Va benissimo. We'll be right back. E allora 17:52 minuti. Ci stavamo ascoltando un pezzo dei Soft Machine, sempre naturalmente all'ascolto di Radio Onda Rossa 87.9. Questo è Caffè Doppio e piano piano la gente si sta svegliando come zombie dopo il coma del sabato sera. Sera, come insomma, sempre con questa sbalzo di voce. E nonostante che ho quasi 18 anni, sto ancora cambiando la voce, non si sa. E naturalmente vi stiamo facendo svegliare con un pezzo che vi rimanderà in coma. E allora sfumiamo questa follia per passare a un prossimo pezzo. Che è un'altra follia. Un pezzo invece solo di Robert Wyatt che si chiama Soup Song, la canzone della zuppa. Va benissimo, allora ci ascoltiamo questo pezzo di Robert Wyatt tratto dall'album che non riesco a leggere perché insomma c'è questa Ruth is Stranger Than non mi ricordo più. Ok, Ruth is Stranger Than Richard. Allora, questa Soup Song da Robert Wyatt. There's a mushroom on my eyelid. There's a carrot down my back. I can see in the distance a vast quantity of beans. To you I'm just the flavor. Dai, qui non siate timidi e mi raccomando saltellate. Oh my god, here. Non ci credo che su questo ritmo e su queste note non vi venga voglia di saltellare, insomma. Eccoci di nuovo in studio con questo pezzo di Robert Wyatt che abbiamo appena ascoltato, che naturalmente è Super Song. Bravo, vedi che te lo sei ricordato e sai anche bene l'inglese. Vabbè, parlavamo di compensi prima, ma vola nell'aria. No, vabbè, perché dicevamo che naturalmente, visto che la musica che Banana ci vuole proporre è tantissima, in un'ora non basta, sicuramente potremmo riproporre una cosa del genere in futuro, no? Beh, se il compenso sarà adeguato, insomma, se ne potrà riparlare, insomma. Un bel calcio nel sedere va bene? No, non se ne parla. Non va bene. Soldi contanti. Vabbè, ok, allora ci puoi lasciare il CD, puoi anche andare, perché insomma i contanti ormai... Scarseggiano. Se vuoi un paio di ramini mi potrebbero essere rimasti in fondo alla tasca. Li chiedo al Premier Monti, insomma, va bene. I soldi. Lui magari ce li può dare. Quello sicuramente, non ci sono assolutamente dubbi. E allora, 17:57 minuti primi, Radio Onda Rossa 87.9, giungiamo quasi alla fine di Caffè Doppio, ci ascoltiamo un ultimo brano prima di lasciarvi a Jasi. Esatto, questo è un brano di Brian Eno, che ha collaborato anche con Robert Wyatt, il pezzo si chiama The Pow Pow Negro Blowtorch. Un titolo corto. Esatto, è anche molto semplice, ma sentirete. Va benissimo. Choice between the Papa Negro blowtorch and me. No. By this time I got to looking for a kind of sushi. Con questo pezzo viene proprio voglia di muovere le anche e ballare. Allora, sul sottofondo di questo pezzo di Brian Eno ci cominciamo a salutare. Arrivano le 18 qui dagli 87.9 di Radio Onda Rossa. Dobbiamo lasciare i comandi a un'ora di jazz con Jasi. E allora cominciamo a salutare Banana e a dargli l'appuntamento a un prossimo futuro indefinito, che sicuramente ci farà ancora piacere ospitarti nel nostro piccolo spazio per ascoltarci ancora un po' di musica degli anni 70. Previo ecopagamento, giustamente. Esatto, il compenso, io quello pensavo, ma quando si parla di soldi qua, insomma. Vabbè, magari in fuori onda. Il programma è finito, andiamo. Il programma è finito e purtroppo è anche fallito. Vabbè, un saluto a tutti quanti, non so se appunto dipenderà appunto dal compenso, se risentirete la mia voce qui, ma insomma ne riparleremo. Va benissimo, allora, 18, un minuto primo e 24, 25, 26 secondi. Caffè Doppio torna domenica prossima, sempre dalle 17 alle 18. Vi ricordiamo, come tutte le volte, che se volete contribuire alla radio senza pubblicità, potete inviare un contributo al conto corrente postale 618-04001 da intestare a Radio Onda Rossa, via De Volci 5600185 Roma, oppure andare sul sito www.ondarossa.info. A questo punto non resta che salutare tutti gli ascoltatori, tutte le ascoltatrici e particolarmente, come al solito, chi ci ascolta da dietro le sbarre. A prestissimo, e salutiamo invece che con la sigla, con questo pezzo che abbiamo mandato più e più volte durante la nostra trasmissione, salutiamo Banana con questo pezzo di David Allen. Speriamo che ti piaccia e alla prossima. And now is the moment at 5 to 3 a.m. for which you've chosen to deprive yourself of sleep. Hello, give us a bit of buzz. Hello, banana! Every chatterbucket of tea, abracadabra, or McKinley Bartley, takes a bowl of soup to paint a picture like me. No doubt about it. Some dog's breakfast of a bloke I'd be, smoking all the tea leaves on me family tree. Oh, my friend a Tweedledum and Tweedledee. Lots of lovely badges on me old school kneecap. Oh, hand me a dahlia, we're going to Australia. Me life's been a failure, she's turned me down. Soon I'll be waltzing on the old gold sand. Everything to love and to understand. Oh, pass me the parsley and me 99 chip. Ain't nothing nasty gonna put.